Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Noi ripartiamo dall'est europeo, come accade spesso in queste settimane. Subito un frammento audio, sentiamolo. Count on us to support and I count on your leadership and the new government. Federica Mogherini, nella sua veste di responsabile della politica estera e sicurezza europea, contate su di noi, lo ha detto ieri sera a Kiev al termine di un lungo incontro con il presidente dell'Ucraina Poroshenko. Da questo punto di vista è un'accelerazione reale dell'accordo di associazione, appunto, tra l'Ucraina e l'Unione. Proprio questa mattina è stato trovato un accordo sul free visa regime, di fatto la sospensione dei visti tra Ucraina e Unione Europea, già indicata e prevista per il maggio del 2015. Nel frattempo, ed è proprio una notizia di pochi istanti fa, il gruppo di contatto trilaterale per risolvere il conflitto nell'est dell'Ucraina dovrebbe riunirsi già domenica prossima a Minsk. Si torna a Minsk, dove la trattativa ha avuto inizio il 9 settembre scorso e dove appunto la trattativa in un primo tempo fallì. Ora la Russia, e naturalmente su questo pesa anche la grossa crisi economica che la sta investendo, sembra davvero tornare con tutti i partecipanti a quel tavolo, a quelle posizioni. Bene, cambiamo argomento. 2015, come sapete, le presidenze di turno dell'Unione Europea sono calendarizzate molto tempo prima. Il semestre italiano si sta per concludere, sta per iniziare quello della Lettonia, un paese piccolo ma confinante con la Russia e con una storia molto importante. Allora sentiamo servizio. Una nuova moneta, lo spettro del default ormai alle spalle, gli occhi di tutto il vecchio continente puntati addosso. Già, perché da gennaio 2015 la Lettonia prenderà dall'Italia il testimone della presidenza del semestre europeo. Il paese vanta una delle percentuali più basse di euroscettici, con appena il 66% degli abitanti contrari alle politiche europee. Questo nonostante l'ingresso dell'euro e l'inevitabile aumento del costo della vita. Abbiamo però fatto di tutto per tenere i prezzi sotto controllo, ha spiegato la presidente della Camera. Tutto questo avviene però in piena crisi del rublo, con forti tensioni fra Russia e paesi del Baltico. Dopo l'Ucraina, infatti, nel mirino della Russia rischiano di finire le repubbliche baltiche. In novembre, durante un'intervista alla BBC, l'addetto stampa di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha ammonito i cittadini lettoni che si apprestavano al voto. Dato il precedente ucraino, le parole di Peskov suggeriscono che al Cremlino si starebbe pensando di usare la stessa strategia in Lettonia, paese in cui in un anno vi sono stati tra l'altro più sorvoli russi che negli ultimi 9. Secondo alcune ONG occidentali, il numero e la gravità degli incontri ravvicinati fra forze armate russe e occidentali è aumentato visibilmente alla luce della situazione in Ucraina. La Lettonia e le altre nazioni baltiche, Estonia e Lituania, sono al confine con il paese russo e temono quindi azioni simili a quelle effettuate in Crimea a marzo 2014. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A riga dunque la presidenza del prossimo semestre, ma noi adesso andiamo invece a Bruxelles, dove domani e dopodomani è giorno o sono giorni di vertice, l'ultimo del semestre italiano, l'ultimo naturalmente del 2015, e dove invece è stato presentato ieri tra l'Europarlamento di Bruxelles e Strasburgo quelle che sono invece le priorità della Commissione Juncker. Sentiamo servizio. Una drastica limitazione dei dossier e delle priorità della Commissione Europea da 130 a 23. Jean-Claude Juncker volta pagina rispetto al metodo Barroso e decide che il prossimo quinquennio in Europa sarà all'insegna di due priorità principali: crescita e occupazione. Una strategia precisa, quella annunciata ieri al Parlamento Europeo, che pone come premesse il lavoro su pochi punti, ma portando a casa risultati concreti. Sì dunque al piano per la crescita e gli investimenti, tema principe del vertice europeo di domani a Bruxelles. Sì al mercato unico digitale, all'unione energetica, alla lotta all'evasione e alle frodi. Sì pure a una agenda europea sulle migrazioni e a un approfondimento dell'unione economico-monetaria, con una promessa, entro 6 mesi, la presentazione di una direttiva sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale e un programma contro frodi ed evasioni, effetto diretto dello scandalo LuxLeaks che ha rischiato di affondare sul nascere. per il team Juncker. Via dall'agenda invece tutti i dossier su cui l'accordo appare lontano. A cadere sotto la mannaia è però soprattutto la legislazione ambientale in fieri, il progetto di tassa energetica, le norme sul riciclaggio dei rifiuti, la direttiva sulla qualità dell'aria. Il Parlamento europeo si è ribellato, calendarizzando a gennaio un voto sul programma Juncker. Anche la presidenza italiana, con il ministro dell'ambiente Galletti, si è detta molto preoccupata della scelta di Bruxelles di ritirare il pacchetto rifiuti e ha posto la questione in agenda al Consiglio Ambiente di oggi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In conclusione, poco fa il Parlamento di Strasburgo ha approvato a ampia maggioranza una risoluzione sottoscritta da quasi tutti i gruppi che sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato della Palestina sulla base dei confini del 67, appoggia la soluzione a due Stati con Gerusalemme capitale ed esorta alla ripresa dei colloqui di pace. È tutto per l'Europa, noi torniamo domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.